Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Non era uno scherzo quello che ho annunciato poco fa. Sono nel solito triste gabbiotto delle trasferte di Radio 24, però questa volta almeno ho davanti a me il mare nella sua sconfinata immensità. E ho una missione da compiere che è antitetica a ogni mia vocazione. Oggi parlerò di pesca sportiva. Io sono stato un pescatore sportivo, ma ai tempi in cui i pesci si prendevano e poi si portavano a casa e si mettevano in padella. Oggi è tutt'altra cosa. Sono al centro di una meravigliosa manifestazione con ben 40 equipaggi che stanno pescando qui davanti proprio al Salone Nautico di Genova, che è la sua 56esima edizione, e ho visto che è un mondo talmente nuovo, per me totalmente sconosciuto. Quindi oggi farò le domande che farebbe chiunque di voi. Però immagino che tra i miei ascoltatori saranno persone che pescano. Pescano a tutti i livelli, in tutte le accezioni, dall'umarè che va a pescare la domenica alla sua cannettina con il vermicello e spera di prendere qualcosa da mettere in padella anche lui, al pescatore più smaliziato che magari i fine settimana ha una barchetta, un gommoncino o l'amico con la barchetta e va a pescare per star fuori da casa, lontano da casa, o una scusa comunque per dare libertà alla sua famiglia. Poi al pescatore, il pescatore più raffinato, quello che in realtà fa parte del grande business della pesca. Ho visto gli stand con delle canne da pesca che per capire che è una canna da pesca ho dovuto fare uno sforzo. Sono degli oggetti fantastici. A me piace la tecnologia, mi hanno anche regalato degli ami ergonomici stupendi, bellissimi. Il pesce a bocca senza che nemmeno se ne accorga. Si trova già in mano al pescatore, ma non succede nulla. Poi oggi i pesci vengono ributtati in acqua, grande scoperta anche questa per me. Per me non aveva senso pescare se non per portare il pesce a casa, per farlo vedere agli altri. Guarda che pesce grosso che ho, no, più grosso il mio, tutte queste cose qua. No, non è più così. Il pesce si prende per il gusto della tenzone, il gusto di prendere, il gusto di usare l'attrezzatura, il gusto di essere bravi. Ci sono delle gare molto specifiche. Io ho il privilegio di avere con me in studio oggi il fior fiore della pesca sportiva italiana. Ho i più grossi campioni di pesca sportiva. Io devo fare sempre una domanda al pubblico in questa prima fase della trasmissione per dare modo alle persone di chiamare all'800240024. Cosa devo domandarvi oggi? Ecco, qual è il vostro rapporto con la canna da pesca? Per voi pescare significa ancora passare lunghe, interminabili, fantastiche giornate in ozio, a guardare il pelo dell'acqua, a guardare la canna, a immaginare che venga un pesce, o semplicemente per rubare tempo alla propria voglia di non fare nulla? O per voi in realtà è uno sport, è qualcosa di affascinante, qualcosa per cui ci si preoccupa dell'attrezzatura, ci si preoccupa dell'imbarcazione, ci si preoccupa degli amici da portare in pesca? Beh, questo parolo farò. Vi prego però di darmi subito una testimonianza immediata di quello che è per voi il pescare. Quando è l'ultima volta che avete pescato, che vi ha portato un amico a pescare, che vi siete avvicinati comunque al mondo della pesca? Per me l'ultima volta, lo posso dire, 2 anni fa, stavo in Liguria, un amico mi ha detto vieni a pescare con me, siamo partiti con una barchetta e mi sono accorto che aveva l'ecoscandaglio per vedere i pesci che passavano sotto. Dico, così è facile per tutti, cioè, no, tranquillo, lo fanno tutti. Ci fermiamo tra un istante, 800240024. Preparatevi, parleremo di pesca tra poco. Melog, cronache meridiane. Come ho testé annunciato, sono al Salone Nautico di Genova, 56esima edizione. Sono per parlare non tanto di barche, sono circondato da un migliaio di barche. Ci sono le imbarcazioni in tutte le loro misure, in tutte le loro accezioni, e ci sono degli strumenti fantastici per solcare il mare. Ho visto poco fa un materassino gonfiabile con la tettoia. Si può andare a largo, è a 4 piazze. C'è anche un motorino perché vibri o perché cammini, non so bene. Io ho fatto il tentativo, lo vedete questa mattina, a girare in Twitter e girare in Facebook la mia versione della nautica. Mi sono levato i pantaloni, mi sono messo in mutande sul materassino, mi sono tutto bagnato. Però oggi sono qui per parlare di pesca perché mi affascina. In fondo era l'argomento legato alla nautica che posso affrontare in maniera più competente, avendo pescato qualche volta da ragazzino. E come vi ho già detto, vorrei sapere da voi, chiamando all'800240024, qual è il vostro rapporto con la pesca sportiva. Sicuramente saranno dei pescatori sportivi tra di voi. Vorrei sapere esattamente quanto tempo dedicate alla pesca, quanto questa vostra passione occupa la vostra giornata, e soprattutto se avete domande da fare sullo scenario internazionale dell'antagonismo e dell'agonismo pescatorio, o non so bene esattamente se è il termine, o qui quanto c'è di meglio sul mercato. Sandro Nofaro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sandro Nofaro è un pescatore sportivo, si definisce lui per modestia, ma organizza eventi, ma è anche recordman europeo. Sei il più grande pescatore d'Europa? No, ho fatto un record su una classe di lenza, ho pescato un pesce grossissimo con un filo di un carico di rottura molto... Ah, quindi è una specie di gara di destrezza, più fino il filo e più grosso il pesce, più sei bravo. Assolutamente. Se si rompe il filo hai perso tempo. Esatto, è quello il... Quindi questa è una specialità che io non conoscevo, diciamo, è una suddivisione delle tante specialità della pesca. Sono tante, sicuramente questa è una di quelle. In cos'è però la tua bravura? Nel sapere usare, diciamo, attentamente la forza del pesce, la tua capacità di stancarlo, di portarlo in barca. Esattamente, c'è un coordinamento fondamentale tra chi guida l'imbarcazione, ovviamente, e chi è alle manovre con la canna in mano. E in questi casi bisogna, ecco, essere molto attenti a non rompere il filo e a gestire bene questo coordinamento tra diciamo lo skipper e il pescatore. Qual è il momento peggiore? Quando tu quasi l'hai tirato su in barca e si rompe il filo? Sì, quella è una delle tante grandi... Quando già lo vedi, già lo stai per prendere. Senti, adesso vuoi dire una cosa che è fondamentale in una trasmissione dedicata alla pesca sportiva, fondamentale per noi profani, per noi poveri ignoranti. Mi spieghi esattamente quando è iniziata questa tendenza nuova, rispettabilissima e perfettamente in linea con il rispetto per le specie senzienti che oggi fa parte della filosofia più corrente. Questa cosa che il pesce non si porta più a casa ma si ributta in acqua, qual è la ragione? Una ragione umanitaria o una ragione, diciamo, legata al senso della gara? Ma nel caso delle gare, in particolar modo, noi siamo concentrati nel rispettare l'ambiente marino e quindi nel non fare stragi, altrimenti saremmo autorizzati a fare una strage e questo non sta bene. E addirittura inoltre, una strage di pesci, quanti ne tirate su? Beh, sai, gli agonisti sono fammi bravi. Fammi un esempio, una gara tipo questa con 40 equipaggi, quanta roba potrebbero portare su? Potrebbero portare su 100 tonni e c'è una normativa che tonni. A prescindere dal, diciamo, dal nostro volere di rilasciare e rispettare l'ambiente marino, non ci consente comunque di diciamo recuperare un tonno rosso. E quindi noi abbiamo lanciato e lanceremo con questo evento ospitato dal Salone Nautico in partnership con il Salone un'applicazione che ci consentirà di fotografare, perché come hai detto bene tu, il pescatore è vanitoso, deve far vedere la propria cattura, la propria certo, preda. Lo condividi su Facebook esatto. È meglio che mangiarsi. Come quelli fanno vedere la fidanzata su Facebook, è meglio che trombarsela. Stessa cosa. Lasceremo questo gusto in bocca e allo stesso momento con questa foto attraverso la nostra applicazione misureranno il pesce, quindi verrà stilata la graduatoria, la classifica della competizione e a quel punto, senza aver tolto dall'acqua la preda, lasciandola nel suo ambiente marino, il pesce verrà rilasciato e non avremo apportato nessun danno, diciamo, alla specie né allo stock ittico di questa zona. C'è un ascoltatore ha già scritto che lui fa pesca subacquea, che penso che sia un altro tipo di attività, dice mangia solo pesce, usa le nasse, d'inverno va a pescare i pesci più grossi in acqua dolce al mondo nel Mekong. È un'altra cosa. Questa però è un'altra disciplina che noi non pratichiamo. È un triste pescatore a fine di lucro, cioè di acquisto del pesce, è questo, no? Ma non credo. No, se li porta a casa e se li mangia, è tutt'altra cosa. Antonello Salvi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Così presento anche l'altro campione. Questo è campione del mondo del big game, che è la pesca dei grandi tonni. Ecco, qual è la differenza di disciplina? Così anch'io capisco qualcosa. Ma ci sono tante discipline che si possono fare per mare. Ogni tecnica viene chiamata in un modo diverso. Il big game riguarda questi grandi pesci, questi grandi tonni, che in pratica vengono pescati pasturando delle sardine. Si gettano delle sardine a mare, si crea una scia. Ma quelle non le puoi riportare vive a casa? No, quelle l'hanno. Voi usate il filo grosso quanto vi pare, anche il filo di... No, i pesci sono abbastanza furbi e riescono a vedere e a scansare benissimo le nostre esche. Quindi fammi capire la specialità, come diciamo. La tua specialità, diciamo, è nel cogliere, dopo il pasturaggio adeguato, il momento esatto in cui il pesce va a pasturare e te lo prendi. In teoria è così, però il pesce riesce a distinguere la sarda che scende in modo naturale e quella con l'amo dentro. È un furbacchione, sì. Sono pesci. E come fai a fregarlo? A fregarlo c'è un'abilità. L'importante è che noi riusciamo... È un segreto che non si dice. No, il segreto è riuscire a mettere bene le nostre sardine nella scia delle pasture. Ma tu una sardina vera o una sardina sintetica, quella di lama? Ma si muove sardine, ancora? No, sono sardine morte, si innescano, si gettano sempre le sarde morte a pezzettini e il pesce, salendo, ne mangia una, ne mangia l'altra, finché, diciamo, viene fregato dalla sardina con l'amo. Ma diciamo, se fossero due arti marziali, la sua è basata, un'arte marziale, sul controllo della forza e dell'elasticità del filo, la tua è basata sulla strategia, diciamo. Strategia e la forza anche per quanto riguarda il filo, perché più sottile peschiamo, con fili sottili, il pesce non riesce a vederlo, quindi mangia, però sono dei pesci forti che tirano molto e quindi... Deve essere un giusto rapporto tra invisibilità del filo e capacità di portarlo. Ecco, abbiamo due pescatori, abbiate pazienza, non me la vogliate, penso che siano due pescatori della domenica. Massimo da Lucca. Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Lei è ai livelli dei nostri campioni internazionali, cosa pesca? No, io praticamente sono un gestore. No, spenga la radio, sennò... Spenga la radio, tanto per cominciare. No, sì, la spenga radio la radio. Però sento, non ce l'ho accesa la radio io. Va bene, allora parli lo stesso, facciamo finta così. Allora, praticamente... lei cosa fa di pesca? Cosa... No, io sono gestore di un impianto di pesca sportiva, di acqua dolce in questo caso. E praticamente quanto è smisurato il suo laghetto? Ma sono circa 180 metri di lunghezza per 50 di larghezza, non è un grande impianto. E che ci butta dentro? Che pesci ci sono? Ma per la maggiore pesci da fondo e il fine settimana facciamo gare, che naturalmente che accende release, peschi e ributta e rimolla. Però volevo dire che la pesca è il lento e inesorabile declino, perché i giovani praticamente... di stare lì fermi, aspettare il pesce che ha bocca nell'era di internet, dove il computer appena pigi il tasto, si accende il monitor, non è proprio... Quindi lei solo vecchietti, umarel, poveracci che vanno lì a pescare perché non c'hanno da far di meglio, così vuol dire questo? Niente, da 3-4 generazioni, triste. L'ultima generazione è finita praticamente. Una Ma volta gli è mai capitato di pesca... che uno morisse con la canna in mano? No, un signore che arriva lì mi, poi... mi è capitato un cliente che ha pescato Reggiseno praticamente... E dentro il lago. Ma lei la sera che ci fa nel suo laghetto? No, facciamo le gare di sera, qualcuno viene con la moglie, qualcuno viene con l'amante, quindi sa com'è. E quindi è ambiguo il senso di chi peschi e cosa peschi. Vabbè, questo è importante. Non è naturalmente, lo chiedo a Sandro Nofaro, il tema che voi toccate, però l'intuizione del nostro ascoltatore, che sia un'attività abbandonata dalle leve più giovani, non esiste al vostro livello, o esiste anche da voi il problema? Voi siete giovani, avete 35-40 anni a testa, quanti ne avete? Assolutamente, ci siamo. Quindi. Beh, sicuramente le nuove leve fanno bene a tutto il mondo della pesca, ci ricorderemo probabilmente, almeno quelli della mia generazione, qualche anno fa il famoso cartone animato Sanpei, che pochi sanno fu realizzato da un gruppo di aziende giapponesi per investire proprio sul futuro della pesca sportiva, e dopo una generazione si sono ritrovati un gran popolo di pescatori, quindi io ti dico è quello che giusto penso io. Investire sui giovani penso ma io. È anche giusto quello che ha detto il nostro probabilmente è in declino l'attività della pesca fannullona, del vecchietto lì la domenica si mette con la canna perché proprio non sa dove andarsi a sbattere, quella non ci sarà più, sarà sempre meno, diventerà un'attività agonistica interessante, legata ai materiali, alle tecniche, alle sfide e anche alla tecnologia. Antonello è uno dei rappresentanti assoluti della tecnologia e ci ha aiutato tantissimo, quindi riportiamo il discorso del allora, nostro... Antonello Salvi, visto che è stato chiamato in causa, già un altro ascoltatore. Aspetta, devo prenderli al volo, sennò cano. Tommaso a Livorno. Tommaso. Sì, ciao, sono io. Sì. Dunque, io ho cominciato a pescare, diciamo, in pancia di mia madre, perché mia madre seguiva mio padre in pesca. Attualmente ho 68 anni e ho preso la pesca e sto vivendo ancora la pesca con la stessa passione, ma una passione che non è riferita alla cattura della preda, al filo, alla tecnologia. Sono tutti contorni che hanno poco senso. Per me pescare vuol dire rapportarmi con una filosofia. Per qualcuno ha senso, per qualcuno ha molto... Ah, per sì, qualcuno per ha molto carità, senso anche io, fare questo. Ma infatti io ho parlato a titolo personale, dico la mia posizione nei confronti della pesca, è come la vita, è una metafora della vita. Si lanciano le esche di qualunque tipo, io faccio l'architetto, quindi progetto, le mie progettazioni hanno la stessa dinamica. Lancio un'esca e aspetto che qualcuno abbocchi, così in tutto. E per questo per me è piacevole... Qualcuno che si affida di lei, in questo senso. Sì, sì, pronto? C'è ancora? Sì, no, è caduto. Sì. Ah no, c'è stato un attimo. No, dico, mi interessa sapere, tu vorresti recuperare una dimensione zen della pesca, un momento di meditazione, di introspezione, di riflessione, invece che andare in un ashram yoga tu vai a pescare, questo è il senso. Esatto, sì. Hai capito perfettamente il mio modo di pescare, non perfetto, è importante catturare la preda, poi è un piacere, ovviamente nessuno lo mette in dubbio, lo faccio quanto posso, quando posso e sempre con piacere, ma anche vivendo pesco, ecco questo è quello che volevo aggiungere. Vivendo pesco, questa è una bella metafora, vivendo pesco, vorrei che fosse condivisa anche da una parte importante del nostro pubblico. Allora, Antonello Salvi, ci eravamo fermati un attimo sulla tecnologia. Ci riesci a farmi capire come si sta evolvendo la tecnologia? Vedi, stanno venendo fuori le varie tipologie alternative. Voi siete degli atleti della pesca, queste sono persone che ancora hanno avversione alla pesca, ma è giusto ci sia anche questo, non è che deve scomparire. Si è differenziata, si è evoluta. Ecco, qual è il più evidente salto in avanti tecnologico nel campo della pesca sportiva? Vabbè, la tecnologia è molto importante in questo settore. I materiali, sì, le tecniche. Riusciamo a distinguere e a capire quello che abbiamo sotto la nostra imbarcazione, quindi per noi pescatori è molto importante. Poi ovviamente entra in atto l'esperienza, però riusciamo a distinguere un dendice da una ricciola e altre cose, quindi la tecnologia è andata molto avanti. Poi ci sono i GPS che ci danno la possibilità di segnarci dei punti per poterci ritornare, per seguire delle rotte. Riusciamo a vedere pesce ormai fino a 500 metri di profondità, una volta era impensabile una cosa del genere. E questo come cambia però l'approccio alla pesca? Una volta era un salto nel buio, tu potevi intuire dalle bollicine, c'era sempre qualcuno che suggeriva i sistemi empirici, oggi c'è la certezza, il branco lo vedi passare, no? Sì, però bisogna anche saperlo, il mare è grande, quindi bisogna sempre saperlo cercare, intuire in base alla temperatura dell'acqua dove si possa trovare, insomma non è poi così semplice, c'è sempre il tocco del pescatore. Ecco, una volta che hai individuato però il passaggio, sai, butti l'amo lì in quel punto. Dipende no, dalla tu butti tecnica. Pezzi, ecco, tu butti. No, ma ci sono diverse tecniche. Diciamo che noi, sia Sandro e io, riusciamo a fare, facciamo tutte le tecniche di pesca, che ce ne sono molte, ce ne sono. Però riusciamo a individuare i pesci e quindi poterci pescare sopra, che sia drifting, trena col vivo, in cico. Dove ce ci ne si sono muove tantissime. Per fare queste gare? Diciamo, in Italia, quali sono i punti chiave? E ci sono, mi scrivono ascoltatori che vanno in giro per il mondo. Cioè, esiste una mappa? Ogni posto ha le sue zone, c'è chi ha molti tonni, chi ha poche secche dove poter pescare, dipende dalla formologia, dal fondale. Entriamo in una disciplina enciclopedica, ma cercheremo quanto è possibile di far capire ai nostri ascoltatori come sta evolvendo la pesca sportiva. Intanto continuate a chiamarmi, ho in ascolto Claudio a Venezia, lo sento tra un istante dopo l'interruzione che ci lascerà separati da voi soltanto per un minuto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, oggi parliamo di pesca sportiva, lo parliamo dal Salone Nautico di Genova, lo parliamo mentre 40 equipaggi stanno svolgendo una gara di pesca sportiva alle mie spalle, quindi è un momento fantastico in cui stiamo capendo che si è evoluta la pesca, che per noi poveri montanari era un'attività legata a una necessità comunque di procurarsi cibo, di approvvigionare di pesce, o un divertimento, un passatempo neghittoso, si butta la canna e si aspetta. No, è una disciplina che assomiglia molto più a una disciplina sportiva in tutti i sensi. Naturalmente stanno arrivando messaggi del genere: pesca sportiva, pure sportiva la chiamate, la caccia invece da assassini. Poi c'è un altro: quello che dicete, che state dicendo, fa molta acqua. Un tonno dopo una lotta con il pescatore, anche se liberato in acqua, molto spesso è destinato a morire. E vabbè, ce ne faremo una ragione, non è che per questo ci stracceremo le vesti, non è che adesso ogni pesce deve essere anche preservato nel suo diritto di non essere pescato. I pesci, ahimè, sono stati fatti perché stiano nell'acqua, galleggino, facciano parte dell'ecosistema, e che ogni tanto qualche essere umano se li vira e butta la canna e se li mangia. Però in questo caso abbiamo capito che la pesca sportiva ha un rispetto, diciamo, dell'equilibrio dell'ecosistema. Non pescano più pesci di quelli che sono necessari per fare la loro gara, o se li vogliono portare a casa, necessari per farseli alla brace con gli amici. Fine, non è che vogliono sterminare la genia dei pesci dai mari umani. Sentiamo qualche ascoltatore. Prima ho detto Claude da Venezia. Claude, buongiorno. Buongiorno. Io ovviamente, dopo quello che ha detto, è difficile dire per me che la pesca è sportiva, perché Io sono, le sto parlando dalle rive dell'Emene che attraversa la città di Portogruaro, dove da 30 anni io mi batto contro proprio le pesche sportive, perché purtroppo... Il suo diritto, siamo un paese libero, ognuno può esprimersi come vuole. Le spiego, il problema è che per organizzare delle gare di pesca, dove si uccidono pesci, perciò non c'è, lo sport non ha mai considerato la morte di un essere vivente, mai. Cioè il povero pesciolino che soffre, lasciare i girini. La caccia difatti non è chiamata uno sport, ma una passione. Ma al di fuori di quello, per fare... Rispetto il suo pensiero, mica dico, mi fa sorridere, però rispetto, nessun problema, sì. Ma in ogni caso, per pescare si buttano nel fiume centinaia di chili di trote di allevamento. Queste trote sono lasciate affamare per 2 o 3 giorni, in modo che la persona che viene a pescare, mettendosi 2 o 3 metri uno dall'altro, al punto tale che le lenze si incrociano, questa gente tira il pesce fuori, dopo si fa pesare, e contrariamente a quello che diceva la persona prima, non c'è nessuna limitazione nello spessore del filo, però si pesca con del 40 centesimi. Sì, però scusi, solo per dire, lei sta parlando di un marel di Portogruaro, che vanno lì poveretti, farebbero prima buttarlo nella vasca da bagno il pesce per scarzo la casa. Qui stiamo parlando di campioni di gare internazionali che hanno attrezzature che non sono paragonabili, quindi e pescano soprattutto in vasto mare, nelle acque, non è chiaro, c'è anche quello, c'è gente che così si diverte, e per lei è un problema perché le dà fastidio la promiscuità in quel posto lì, le distrugge il paesaggio. Ne prendo atto, ahimè il mondo è crudele, passano anche le navi da crociera per la laguna di Venezia, e ogni tanto ci passa anche quel vecchietto e pesca il suo pesciolino. Elena da Modena. A noi. Ecco. Sì, Elena. Sì, buona pesca Nicoletti. Io vuol sono dire una portare pesca... sfiga, porta pesca, stanno tutti a grattarsi le palle qua, lo dice apposta lei. Sì, io sono una pescatrice nostalgica. Io ho iniziato... Nostatica, nostalgica? Nostalgica, sì. Io rimpiange i bei pesci di una volta. Ma... diciamo era un pezzo che non sono andata a pescare. Comunque ho iniziato da quanti anni non vado più a pescare? Pozzanghere. Io ho cominciato con le pozzanghere, per cui ero molto piccola. Poi quando ho preso uso della bicicletta, andavo in bicicletta con la mia canna, e poi andavo a prendere i pesci, le trote nei ruscelli, per cui ascoltavo l'acqua, parlavo con i pesci e dava loro un chance. Parlava con i pesci? I pesci sono muti, sì, tutto fa. Sì, poi arrivava tutte le chance del mondo, perché mi piace molto che sia la competizione che il pesce. E le rispondeva il pesce alle sue domande? No, perché può vincere, voglio dire, io non devo essere super attrezzata. Lei come era equipaggiata? Oltre la canna, oltre il cestello con la merenda, aveva anche il fiasco del vino? No, i vermi che prendevo fuori dalla terra, comunque che scavavo fuori io, poi mettevo intagliare, preparavo io, insomma, bla bla bla, comunque davvero, insomma, sono... Poi quando se non parlava lei, non è che gli altri c'erano molto da dire, i pesci. Io capisco che... Interessante, io cercavo di immaginare quel mondo sotto l'acqua, come anche quando andavo a pescare in mare con la piuma di gallina, non avrei mai creduto di tirare su una trota nel mare di Gargano. Insomma, era una cosa particolare. La trota per del Gargano è un'emozione enorme quando tu senti proprio questo. Ferma un attimo. Antonello Salvi, perché trova singolare la signora la trota nel Gargano? Non può esserci. Trova strano. È un pochettino strano. E come mai? Però ha detto una cosa vera, perché con delle piume si fanno. Ma ancora si usa? Sì, se ancora si usano, si possono prendere piume di gabbiano, di uccelli, insomma, e fare delle piume. Adesso si usano le piume artificiali perché, ahimè, la signora andava con la piuma di gallina sui tempi. Sì, la piuma di gallina. Si ci lega un amino vicino, si ci può mettere un piombino, scende l'esca, il pesce... Come sono cambiate le esche, visto che la tecnologia è una delle cose... Le esche cambiano molto, perché... L'esca più tecnologica che esista in questo momento, se devi dirmi un'esca legata alla tecnologia nuova, cosa può? Ma non esistono ancora al momento delle esche telecomandate, però esistono i rapala che ci sono sempre stati, dei siliconici, tante esche di gomma si usano ora. Che simulano l'insetto? Anche. Poi ci sono chi pesca nei fiumi, nei laghi, si riescono a creare, proprio a costruirsi, per fai da te... delle cose eccezionali, tipo la mosca, la farfalla, proprio la costruiscono, riescono a farlo. Ecco, ma questo bricolage del pescatore che mi ricorda un po' i miei tempi, quando ci costruivamo le esche galleggianti, lo spino di Porco Spino andava molto di moda negli anni 70, non so se esiste ancora. Ma forse come galleggiante. Come galleggiante, era molto sensibile, uno prendeva la culo di un Porco Spino e usava come galleggiante, c'erano nei boschi vicino casa nostra, come no. Questo si usava. E anche le esche c'erano i segreti, c'era sempre quello che sapeva fare la pastura con ma la sua esca. In ogni cosa ci sono sempre i segreti, ma là entra in gioco, ci può essere la fortuna del principiante, ma entra in gioco l'esperienza. Sempre ci lì. Sono dei limiti nelle gare di esca possibili, ci sono delle esche scorrette che uno non può usare troppo facile. Ma in ogni gara ci sono dei giudici, c'è un programma da rispettare, ci sono delle tabelle. E qual è il limite? Un chilo quale di esca per tutti quanti uguale, la canna uguale, il libraggio uguale, si pesca. Là poi si vede la differenza del pescatore. Volevo far partecipare un altro ospite che è venuto in questo momento, che magari è anche lui un pescatore sportivo, e anche lui naturalmente lo fa a un livello naturalmente non simile ai campioni internazionali che abbiamo davanti. Nella vita fa il chirurgo maxillofacciale, quindi si occupa di chirurgia plastica. Come mette insieme questa gara che stiamo facendo, la sua passione per la pesca e la sua attività? Nasce, diciamo, professionalmente prima la pesca, perché io a 4 anni già cominciavo ad andare a pesca, e poi sono stato prestato in corso d'opera alla chirurgia. Sarà molto piacere ai suoi pazienti sentire di sì, questo. Sì, ma tanto loro lo sanno che nel momento in cui non mi trovano io sono scappato da qualche parte. Ma è perché era bravo a slamare, è diventato bravo a maneggiare poi le mascelle, per questo. Il fatto della manualità ha qualcosa a che vedere. La chirurgia è ancora un fatto artigianale, e anche la pesca ha molto dell'artigiano, insomma, quindi sono passioni che in qualche maniera collimano per la manualità. Ecco, ma questa gara che stiamo in questo momento osservando alle nostre spalle, visto che noi siamo spalle al mare, stiamo dando per motivi di opportunità, è anche legata a un'iniziativa umanitaria. Esatto. Diciamolo così, almeno pareggiamo con quelli che ci stanno dando degli assassini di povere trote abbandonate. È proprio far coincidere queste passioni. Io faccio il chirurgo maxillofacciale, ma mi occupo di bambini con malformazioni del volto. E da 16 anni collaboro con un'organizzazione umanitaria internazionale che si chiama appunto Brescia Smari, che si occupa appunto di questi bambini con labbro leporino. Abbiamo viaggiato in oltre 70 paesi, abbiamo costituito la Fondazione Italiana nel 2000 e noi abbiamo lavorato tanti anni all'estero, abbiamo cominciato ad accorgerci che i problemi che trovavamo all'estero erano anche presenti in Italia. Allora abbiamo creato... andate, penso, in paesi soprattutto dove non c'è, diciamo, una assistenza così capillare. Se nasce in Italia un bambino con labbro leporino sa già esattamente che sarà operato. Ci piacerebbe. In quali paesi operate voi? Noi lavoriamo in 70 paesi. E proprio mi perché... fa un esempio, quali sono i paesi? Ma guardi, cioè, abbiamo tutta l'altra la zona dell'Asia, in India, nelle Filippine, in Sud America. Se non ci fosse voi non avrebbero speranza, se lo terrebbero tutta la vita. Diciamo che l'organizzazione è diventata così grande in questo momento che tratta un terzo della patologia mondiale del labbro leporino. Ma quello che dicevo, lei dice in Italia sì, ci sono alcuni centri, però diciamo che le esigenze appunto non sono tali, da cui nasce l'iniziativa. Cioè noi abbiamo cominciato a investire anche sul territorio italiano, integrando quei servizi che il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale non era in grado di integrare. Allora abbiamo creato questo progetto che si chiama Un Mare di Sorrisi, in collaborazione anche con la Marina Militare. Quindi diciamo che dall'ambiente della pesca sportiva viene fuori un presidio importante verso l'umanità sofferente. Questo connubio appunto tra la passione della pesca e la passione per la chirurgia ha fatto sì che molte di queste gare, competizioni sportive nazionali ma anche internazionali, dedicano appunto a Operation Smile i proventi della raccolta delle iscrizioni, un fundraising particolare dedicato alle nostre iniziative. Quindi è un connubio che vede appunto il mare al centro, i pesci come strumento di attrattiva per i pescatori e per coloro i quali vogliono scommettere sulla nostra attività. Io nella mia inesperienza ho detto le bestialità, pensavo che già stessero pescando, ma 40 team con le mie spalle stanno preparandosi alla pesca, cominciano mattina alle 6.30. Sandro Onofro, in che maniera si stanno preparando? Io non capendo nulla pensavo che già stessero pescando, ma ho detto una bestialità. Ma stanno preparando esche, terminali, io pensavo che perché già buttano dentro, invece dove andranno a farlo? Andranno qui davanti allo specchio acqueo del porto di Genova, a circa 2 miglia di distanza, e si sfideranno su un campo da gara piuttosto piccolo, fianco a fianco, e cercheranno di prendere il pesce già più grande. Avete già scandagliato il campo da gara? Assolutamente. E cosa sì. c'è adesso? Ci sono un po' di tonno. C'è roba lì? Sì. E resistono fino a domani? Beh, questo è un mare aperto, quindi oggi ci sono, domani non ci sono. I pesci hanno la coda, quindi si spostano. Ricordo che Sandro Nofaro è il recordman europeo di una specialità particolare di pesca, quindi le persone che parlano con me in questo momento parlano al massimo livello della competenza. Noi ci fermiamo un istante per il traffico, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Lo sapevo che hai suscitato le ire del pubblico talebano. Macellai assassini, da bravo macellaio fa il chirurgo plastico. Sì, il labbro leporino adesso lo curiamo con l'imposizione delle mani e con gli infusi a base di tè verde. Fa il chirurgo plastico, poi si meraviglia di disastri che provoca la chirurgia plastica. Non capire una mazza è qui rappresentato nella sua più sublime essenza. Da bravo macellaio fa il chirurgo plastico. Benissimo, io spero che il signore scrive così domani abbia, non so, una cosa semplice, un'ernietta, capito? Che gli faccia male e poi vada a farsi curare da chi gli dà la tisana. Ezio da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Io ho lavorato per anni nell'ambiente della pesca, faccio il tecnologo, adesso seguo i vegetali. Comunque il concetto è questo, io ho imparato che nel tempo prima mancano i moscardini, si vanno a prendere non so dove, a dei polipi si vanno a prendere, si devono andare in Marocco perché in Italia non ci sono più. La sostanza è, e lo sanno perfettamente, nell'ambiente di Chioggia. I polipi si pescano con la canna, scusa, nella mia ignoranza, non si pescano con la canna. Prego? I polipi. Si pescano con la canna anche i polipi, no? Si pescano in varie maniere, io non sono un pescatore, ho trasformato, però conosco il problema perché ho lavorato nell'ambiente di Chioggia, ma la realtà è che i vecchi del mestiere dicono sempre quando si va in mare si va a rubare perché non paghi niente e quindi la gente non si rende conto che non è roba sua, quindi lo considerano roba loro, ma è roba di tutti e non è di chi va a pescare, quindi la gente, il concetto è questo. Devono capire che quando vanno in mare vanno a prendere roba di tutti, non è roba loro. Sì, ma questo mi sembra che sia è il principio ispiratore dall'inizio di questa trasmissione che si è detto. Ma prendere la roba di tutti, però qualcuno dovrà andarla a prendere. Questo qualcuno in qualche maniera si deve attrezzare. Sennò il mare rimane pieno di pesci, noi stiamo a guardare riva. Può starci anche questo concetto, però non mi lascerei prendere troppo da questo afflato. Esistono dei disastri possibili che possono essere fatti, l'uomo ne fa un'infinità. Ma in questo momento, secondo me, stiamo parlando probabilmente del meno nocivo all'ecosistema delle attività umane, la pesca sportiva. Non ne stiamo parlando di pesca intensiva o disastri ambientali o di rovine di fondali o estinzioni, sono persone che organizzano delle gare, tengono in piedi un bel mercato in cui persone lavorano, quelle costruiscono le canne, costruiscono le esche, costruiscono le barche, ci sono migliaia e migliaia di famiglie su questo lavorano, fanno un'attività sportiva e si applicano a un'attività che è antica come è antico l'uomo. Sandro Onofaro, allora vediamo su quello che stiamo dicendo, non ho ben capito cosa dicesse il signore, ma vogliamo ribadire il fatto che il pescatore sportivo non è nemico della fauna ittica? Assolutamente, proprio perché grazie a queste nuove tecnologie riusciamo a misurare, a fotografare il pesce, ma non a toglierlo neanche dal suo ambiente naturale, non lo portiamo in barca per misurarlo, lo misuriamo a mare, lo rilasciamo liberamente nel suo ambiente e probabilmente la maggior parte di noi, quando è in una giornata comune di pesca in mare, effettua un prelievo responsabile, quindi trattiene solo quello che porta a casa per la cena, il resto, la bella giornata, ecco, non capita sempre, quindi quando capita sicuramente si diverte, ma il surplus lo rilascia. Anche cosa ci fate, non è che fabbricate poi il tonno in scatola voi? Assolutamente no. Mi sembra chiaro. Tony, buongiorno. Sì, buongiorno, Tony. Buongiorno. Sì. Sono in autostrada e sto andando a pescare. Ma non è un po' tardi per andare a pescare? Non è un'ora un po' avanzata, no? No, ma io pesco a mosca, infatti volevo parlare proprio di quella pesca alla quale accennavate voi prima di tanti anni fa con la piuma di gallina. Oggi la pesca a mosca è l'evoluzione di quella. E si pesca bene proprio al momento, quasi al tramonto. Dal tramonto. Dove va a pescare? Dove butta la lenza? Dove butterà la lenza tra poco? In questo momento sono in provincia di Cuneo e andrò in Val Gesso, Valdieri, zona Valdieri, le vecchie riserve dei Savoia. Per cui c'è anche una rimembranza storica. Cosa spera di portare a casa? A casa niente, perché anch'io sono un no-kill, un no-kill evoluto, nel senso che qualche volta una trotella me la porto a casa per mangiare, per uso consumo familiare, diciamo. Sì, ma però deve sentire adesso come un omicidio, non è che se si è mangiato un bambino si porta una trota a casa, no, stiamo esagerando. Io ho un grande rispetto, ripeto, per tutte le convinzioni, ma non è che uno sentire in colpa se prende una trota se la porta a casa, perché se vai in una pescheria, se vai in un supermercato è pieno di animali congelati e messi lì. Poi vorrei capire meglio, Antonello Salvi, che ricordo che è campione del mondo di big game, l'evoluzione di questa pesca che diceva il signore, per capire, nella sua lettura fantasportiva, quello che va a fare questo signore, oggi come si chiama e cosa è? Lui pesca a mosca e quindi probabilmente si crea i propri artificiali, le proprie mosche, che possono essere mosche, farfalle, tutti gli insetti, che poi le lancia e le fa cadere in modo naturale sull'acqua e il pesce vede... Esiste questa... una specialità sportiva che riprende questa cosa oppure... Sì. Ci sono, diciamo che laghi, fiumi, ci sono gare anche di questa pesca. Mamma mia, tantissime. Allora, Aldo da Chieti. Aldo. Buongiorno Nicoletti. Dunque, d'ascolto. Io avrei un appunto da fare ai suoi ai campioni ospiti internazionali. Certo, lei è chiaro, ogni pescatore ha sempre da insegnare qualcosa agli altri. Lei dove pesca, no, quanto pesca? Io sono un ex agonista che periodicamente, diciamo, ha avuto un momento di stasi. Ma tramite un canale televisivo satellitare mi è rivenuta la passione più di prima. Gli è rivenuta la voglia. Ora è sparito tutto. Possibile che non possano fare pressione per poter vedere qualcosa sul digitale terrestre che è pieno di immondizia? Ah, lei dice mancano canali. Pensavo mancassero canali nel senso di luoghi dove buttare l'amo. Come mai non c'è un canale televisivo dedicato alla pesca sportiva? O no? C'è un canale, ovviamente, diciamo a pagamento, non pubblico, ma sicuramente c'è. Noi siamo dei testimoni, anche lavoriamo su. Come si chiama? Non c'è mica un problema. Pesca TV. Pesca, Sky 236. Aldo, c'è Pesca TV? Lei non lo prende, non ha il decoder? Niente, no, Aldo evidentemente è fermo al digitale terrestre e poi, poverino, non trova il canale. Qualcosa bisogna investire anche nelle proprie passioni. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio il Salone Nautico di Genova che mi ha ospitato. Abbiamo detto quello che potevamo dire nel lasso di una scarsa ora sulla pesca sportiva, quindi anche io ne so di più. Alla prossima.